Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, avevamo un appuntamento importante, ma come capita nelle migliori famiglie, sarà capitato anche a voi. L'appuntamento è saltato, Roberto Vecchioni per un impegno inderogabile non ha potuto mantenere la promessa di venire qui in studio, ma ci sarà presto una nuova occasione, quindi non ci resta che attendere fiduciosi, rimaniamo caldi insomma, ma nell'attesa c'è un altro importante appuntamento a cui ci stiamo preparando. Radio 24, come sapete, si trasferirà al Salone del Libro di Torino con uno stand coi fiocchi allestito nel padiglione 2, stand L161. Ad attendervi ci saranno i vostri conduttori preferiti che potrete ascoltare in diretta ma anche avere lì vicino in carne e ossa. Io vi aspetto venerdì alle 11. E a proposito del Salone del Libro, oggi dedichiamo la puntata alla lettura, al nostro rapporto coi libri. Che tipo di lettore siamo? Quale vorremmo essere? Essere. E in particolare, siamo noi che scegliamo il libro che leggiamo e lui che sceglie noi? Una domanda che nasconde molte variabili. Pensate un po' all'ultimo libro che avete letto o quello che state tenendo tra le mani. Che cosa vi sta dicendo? 800 24 00 24, chiamateci, perché anche oggi uno di voi potrà ricevere a casa il nostro consiglio di lettura. L'abbiamo scelto proprio, come sempre, ad hoc. Come si legge un libro e perché, di Blum Harold. È proprio un libro in cui l'autore ci spinge a fare delle riflessioni e a considerare tutte le sfaccettature che ci sono dietro questo desiderio, per alcuni molto piacevole, di andare a leggere storie e a rileggere anche libri già letti, classici e non solo. 800 24 00 24, ma come sempre anche i nostri messaggi 349 238 6666 e il nostro profilo Facebook. Qua in studio con me Alberto Pellai, medico e ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, scrittore e lettore. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti Alberto, ci sono persone che amano leggere, lo fanno con regolarità, quasi spinti da un proprio piacere, bisogno. Ci sono dei lettori occasionali, ci sono dei lettori, lasciami dire, stagionali. Sono i lettori che decidono, si dedicano alla lettura come un piacere quando sono in vacanza, quando riescono proprio, no, a ritagliarsi uno spazio e non sono sopraffatti dagli impegni, dalla stanchezza, perché alla sera uno vorrebbe magari leggere, però arriva, tocca al letto, boom, sviene. Tu che tipo di lettore sei? Io sono decisamente un lettore cronico, sempre, questa è la cosa interessante, ho sempre almeno due libri con me in qualsiasi spostamento io faccio, ho anche la fortuna di muovermi frequentemente su mezzi pubblici per raggiungere il mio luogo di lavoro. Io approfitto sempre di questo tempo per riempirlo con la lettura, che per me è proprio un'esperienza, da una parte di divertimento. Scelgo spesso libri semplicemente perché mi incuriosisce quello che ci troverò dentro, e anche di approfondimento. Leggo molti libri perché il mio lavoro me lo richiede. 800 24 00 24, quale libro stai leggendo, Alberto? In questo momento tre in contemporanea. Ho un libro che mi ha mandato una collega che ha aiutato una mamma a far nascere un bambino che aveva un problema, ed è proprio il racconto della mamma, si chiama In attesa di Michele, un libro molto molto emozionante. A chi lo consiglieresti questo? Perché noi oggi vogliamo chiedere anche ai nostri ascoltatori da casa di suggerirci un libro, ma di dedicarlo, di dare anche un po' il profilo del lettore a cui lo consigliano. Ma direi, questo è chiaramente un libro che secondo me aiuta tantissimo le mamme che stanno avendo una gravidanza difficile o che hanno avuto qualche difficoltà nell'attesa del loro bambino. E gli altri due? Il Ruggito della mamma tigre, perché sì, è un perché libro vogliamo farne anche esatto, una puntata, e quindi mi sto preparando. E poi avevo letto in tutta fretta un libro di un ospite che avrebbe dovuto essere con noi oggi e che non svelo, perché quando sarà il momento ne approfondiremo, quando tornerà Roberto Vecchioni. Ma intanto io vorrei capire che cosa succede nella nostra testa quando leggiamo. Leggere e quali meccanismi attiva, simili o diversi da quelli che si attivano mentre osserviamo, guardiamo o ascoltiamo? Io voglio girare tutte queste domande a un grandissimo esperto che abbiamo il piacere di avere in linea con noi, il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti e buongiorno a lei, Nicoletta. Professore, grazie di essere con noi. Ascoltare e leggere, sono attivati o attivano gli stessi processi? Ci sono delle differenze? No, ovviamente ascoltare e leggere hanno alcuni aree del cervello che sono in comune, che sono le aree temporali posteriori, perché sono quelle che sono coinvolte nei processi di comprensione. E quindi sia che si tratti di comprendere il linguaggio orale, sia che si tratti di comprendere il linguaggio scritto, le aree di comprensione, di elaborazione, diciamo, recettiva del linguaggio, cioè la comprensione, vengono coinvolte. Però la lettura è un processo più complesso rispetto all'ascolto, nel senso che coinvolge anche, per esempio, la visione. In realtà la visione è coinvolta anche nell'ascolto, perché noi preferiamo in genere vedere e ascoltare. Tuttavia abbiamo il nostro sistema è in grado di elaborare il linguaggio anche senza visione, cioè a occhi chiusi noi ascoltiamo e possiamo comprendere bene, anzi qualcuno chiude gli occhi proprio per non distrarsi e per ascoltare meglio. In genere nella lettura sono coinvolte almeno tre aree del cervello, sì. come tutti sanno il nostro cervello è diviso in aree funzionali che si chiamano lobi e poi in due emisferi. Ora, prevalentemente si ritiene che sia implicato l'emisfero di sinistra, tuttavia è una semplificazione, perché i dati delle risonanze funzionali e dei vari strumenti di osservazione del cervello mentre funziona dimostrano che il cervello è tutto coinvolto, certo, sia aree di destra che di sinistra, però prevalentemente sono coinvolte le aree di sinistra, quindi l'emisfero di sinistra. E rispetto ai lobi sono coinvolti soprattutto tre aree, tant'è vero che io lo chiamo il triangolo della lettura, cioè delle aree occipitali che riguardano la visione, i processi di visione, e in particolare l'uomo ha sviluppato un'area che è sensibile solo ai processi visivi del linguaggio scritto, che si chiama area della forma della parola proprio. Quindi poi c'è una seconda area, che è quella che abbiamo detto in comune tra la comprensione del linguaggio parlato e la comprensione del linguaggio scritto. Infine c'è una terza area, che è più anteriore, che è un'area di elaborazione espressiva, che viene coinvolta sia quando si legge ad alta voce che quando si legge ad bassa voce, indifferentemente. Senta, professore, la lettura comporta anche naturalmente una decodifica e una comprensione, se no, no? Che si fa, perché si legge. Ma come avviene e perché ad alcuni viene meglio che ad altri? Sì, naturalmente i processi di comprensione del testo scritto sono in parte indipendenti dal processo di decodifica, cioè di trasformazione dei segni scritti in parole. Sì. Noi sappiamo bene che possiamo leggere ad alta voce anche cose senza capirle. E qualche volta è successo a tutti, studiando, certo, di aver letto ad alta voce senza capirle. Perché? Perché questo circuito che può escludere la comprensione è un circuito visuo percettivo, mentre nella comprensione vengono coinvolte delle aree semantiche e viene coinvolto, diciamo, l'enciclopedia personale dell'individuo, cioè noi per comprendere dobbiamo richiamare delle informazioni precedenti. Infatti, quando leggiamo magari in una lingua straniera che non sappiamo bene, abbiamo molta più difficoltà, no? Ad associare significati, simboli e a comprendere quello che leggiamo. Poi sarà anche quanto ci piace quello che leggiamo, quanto siamo concentrati. Ma Alberto, ci sono delle persone che ricordano, tu hai un'ottima memoria, anche i dettagli minimi. Alberto Pellai si ricorda come Laura Vanossi, proprio. E invece altre persone come me, che hanno dei ricordi un po' sommari, sfumati. Io credo che poi questo abbia molto a che fare con qual è la relazione che tu costruisci con un libro. Ci sono proprio dei libri, e questo sia a me, per me è successo sia con libri di narrativa sia con libri proprio di lavoro. Ci sono dei libri con cui si sviluppa una sorta di sintonia perfetta tra il lettore e il contenuto del libro, quindi ne vieni potentemente risucchiato, e quello secondo me è un'esperienza che alla fine ti cambia. Io ho proprio dei libri che quando sono entrati nella mia vita c'era un prima e c'era un dopo quel libro, e ci sono altri libri che secondo me invece ti toccano, ti interessano, ti incuriosiscono, però, ma lasciano meno traccia, allora probabilmente di quelli perdi molti più dettagli. Professor Stella, prima di salutarci, qual è il libro o quali i libri che hanno segnato per lei un prima e un dopo? L'hanno proprio cambiato un po'? Dunque, ma insomma, io devo dire che sono molto appassionato di neurologia, di neuroscienze, quindi ci sono soprattutto libri di quel tipo che mi hanno interessato molto. Ancora oggi però sono molto interessato alla saggistica, per esempio adesso sto leggendo un libro molto carino che è intitolato L'aritmetica di Cupido, ed è un libro che tenta di incrociare matematica e letteratura. Io ahimè ho questo difetto che insomma sono un lettore stagionale per i romanzi, cioè solo in un breve periodo dell'estate, ma leggo molta saggistica e mi piace molto l'incrocio tra le neuroscienze e altri aspetti. Quindi per esempio è molto affascinante questo libro, L'aritmetica di Cupido, proprio perché intreccia letteratura e numeri. Perché intreccia i numeri con la letteratura, perché in realtà, per esempio, noi abbiamo spesso una sorta di rifiuto dei numeri. Molte persone dicono, ah no no, non parlarmi di matematica, io non sono... Quella sono io. Ecco, volevo coinvolgere. Lo sa che io sono cocciutamente ignorante, proprio non capisco. Con i libri devo dire che ho un feeling migliore. E allora io lo consiglio questo libro. Lo leggerò. Perché l'aiuta sicuramente a capire che c'è anche molta... Perché l'aritmetica in fondo è un modo di rappresentare la realtà, e quindi anche la realtà delle emozioni, la realtà delle osservazioni, la realtà delle rappresentazioni che noi ci costruiamo. Certo. Quindi, professore, glielo prometto, l'aritmetica di Cupido lo leggerò e poi la invito, se non capisco però la chiamo, eh? Grazie professor Stella, grazie per essere voi, stato con noi. Invece voi chiamateci, grazie, all'800 24 00 24. Lo sa, io venivo qui tutti i sabati quando ero piccola, e mi ricordo quando sua madre mi dette Anna dai capelli rossi. Leggila con una scatola di Kleenex, mi disse proprio così. Chi mi dà una mano? Li avete i libri delle scarpe? I libri delle scarpe? Ma chi è l'autore? Ah, non lo so. Un'amica mi ha detto che mia figlia deve leggere i libri delle scarpe, così eccomi qui. Noel Streetfield ha scritto scarpe da ballo e scarpe per pattinare e scarpe da teatro e scarpe per danzare. Io comincerei con scarpe da ballo, è ancora il mio preferito. E in linea con noi abbiamo Salvatore Carruba, un libro tira l'altro, domenica, no, nessuno se lo perde, l'appuntamento delle 13:30. Ciao Salvatore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti Salvatore, un po' come succede per la dieta, anche per la lettura, c'è chi è onnivoro, chi invece ha dei gusti particolari un po' mirati, poi nel corso della vita si cambia, per carità, ma per chi ti dicesse in questo momento non ho tanto appetito, ho bisogno di qualche cosa che mi stuzzichi ma non so verso che cosa orientarmi, ci sono in questi momenti, no? E poi per fortuna ci sono delle trasmissioni come la tua che danno delle buone dritte. Grazie della pubblicità. Ma insomma, se qualcuno vuole mangiare, cosa fa? Va da Peck, qualche cosa che gli piace lo trova. Io credo che un giro in libreria sicuramente permette di recuperare fiducia nel gusto per la lettura, nel senso che sicuramente trovi qualche cosa che fa al fatto tuo, nel senso che in quel momento sei in una particolare situazione psicologica, di entusiasmo, di tristezza o qualunque cosa, e troverai qualcuno che ti può fare compagnia o qualcuno che ti può dare una mano. Quindi la prima cura secondo me è proprio la conoscenza, e dirlo nel caso dei libri è ovvio. E certamente noi cambiamo, quando ero al liceo mi sembrava quasi una vergogna leggere romanzi, poi sono diventato un grande divoratore di romanzi, oggi un po' per mestiere, un po' per piacere leggo un po' di tutto e sicuramente riconosco che ci sono dei momenti nei quali l'abbandonarsi a un amico anche di carta sicuramente dà un grande conforto. Senti, ci sono persone che mi stanno scrivendo, io li scelgo anche se non vorrei dalla copertina. Altri messaggi arrivano, io mi trattengo ma vado sempre a vedere come finisce. Ci sono cose da fare o da non fare, Salvatore? No, nel senso che io dico che qualunque cattivo libro è meglio di nessun libro, quindi va bene tutto, anche la copertina. La copertina è una politica di marketing efficacissima. Sul Financial Times e sul 24 Ore ci sono delle rubriche che descrivono le copertine, ci sono collane che hanno fatto o case editrici che hanno avuto successo grazie alle copertine, perché hanno saputo stabilire quel feeling e quel senso di complicità con il lettore che è fondamentale. Dopodiché, se uno vuole comprare un libro perché è un romanzo e vuole sapere come va a finire, bene, spero che non lo faccia con un giallo e soprattutto che non lo dica agli amici. Perché? E magari è interessante proprio dire, e questo io lo dico da autore, che copertina e titolo di un libro spesso sono totalmente al di fuori della possibilità di intervento dell'autore. Cioè, quando l'autore consegna un libro all'editore, gli dà il suo manoscritto, il suo file Word, ma non saprà fino all'ultimo momento qual è il titolo e quale sarà la copertina del suo libro, su cui molti editori hanno proprio una ricerca, fanno una ricerca molto approfondita, proprio perché quella è una variabile fondamentale per far sì che ci sia qualcuno che legge quello che tu hai scritto. Salvatore, ci saluti con un confettino? Come... un confettino nel senso di un libro per bambini? Certo, perché io ti ascolto e so che a chiusura del tuo programma c'è il confettino. Il confettino di domenica sarò alla Fiera del Libro con tutti voi, con tutta Radio 24, parleremo di Russia, c'è un libro per bambini con le novelle di Chekhov, con storie di animali, che è veramente una delizia, è edito da Gallucci. Fantastico, un confettino super buono, come sempre, grazie a Salvatore Carruba, grazie a voi, appuntamento a Torino, anche questo è un consiglio, no? Il confettino, noi di consigli, come sapete, ve ne diamo ogni giorno, quindi io vi invito a non perderveli, a fare un saltino nel nostro laboratorio del benessere, il Daily Lab, dove i nostri esperti lavorano e ci suggeriscono modi, strumenti, alimenti, idee per prenderci cura di noi. Il consiglio di oggi riguarda il tofu. Molto semplice, andate sul sito di Radio 24, www.radio24.it e cliccate sul Daily Lab. Essere e benessere. Siamo ritornati, oggi parliamo di libri. Un libro è una finestra aperta su altri mondi. A volte sono loro che ti chiamano e si propongono, altre devi cercarli e conquistarli. Questo ci ha scritto Giovanni nel nostro profilo Facebook 800 24 00 24. Che libro state leggendo o avete appena finito di leggere e che emozioni vi dà, che cosa vi smuove dentro? Ditecelo, chiamateci subito, perché uno di voi riceverà a casa un libro, tra l'altro molto bello, si intitola Come si legge un libro, di Bloom Harold, in collaborazione con IBS, e parla proprio del piacere della lettura, ma accompagna a godersi questo piacere. Sapete che noi siamo qua per imparare, per riscoprire anche il piacere di occuparci di noi, di coltivarci, di occuparci del nostro benessere e quindi anche di quello degli altri, delle persone che stanno vicino a noi. Aspetto le vostre chiamate, voglio far arrivare a casa vostra un libro. Salvatore ci chiama da Roma, sentiamo che cosa ci racconta. Buongiorno Salvatore, benvenuto. Buongiorno. Pronto? Sì, noi siamo qua, pronti. Ah, buongiorno. Niente, io direi, no, presumo che già abbiano dato delle risposte a quello che volevo dire, nel senso che io leggo per esempio molti libri d'avventura, per rilassarmi, eccetera. Cutler, Follett, Rollins, eccetera. Divoro, nel senso vero della parola, però poi dopo praticamente dimentico tutto quello, cioè è una bellissima esperienza nella lettura, però poi alla fine dimentico proprio il racconto, ciò che ho letto. E invece, a differenza magari di saggi, eccetera, che mi rimangono profondamente impressi. Forse lo chiedo a Salvatore, lo chiedo anche a voi da casa, lo chiedo ad Alberto. Salvatore è un po' troppo rapido, cerca di... li sbrana i libri. Bisognerebbe invece degustarli un po', ecco. Credo che... Ieri abbiamo parlato di cibo e allora mi è rimasta ancora un po' l'idea. Alberto, cosa dici? Credo che la parola chiave sia stata proprio quella che ha usato lui, cioè divoro. Ed effettivamente ci sono soprattutto i libri di narrativa, un romanzo che ci fa fare un'esperienza di immersione totale. Entriamo profondamente, lo divoriamo con velocità e... il tempo è una variabile importante, per cui se noi in un libro ci entriamo con molta passione ma allo stesso tempo lo divoriamo in tempi brevissimi, l'abbiamo consumato, rimane di quel libro un'ombra dentro di noi, ma non i particolari. Può essere utile a fare delle note sul libro, questi... in modo che, soprattutto per rallentare un po' il passo, fermare con un piccolo segno, naturalmente a matita, perché a me piange il cuore. L'ultima volta ero in treno, vedevo questa signora accanto a me che scriveva delle cose a biro sul libro. Io mi sentivo, avevo il cuore siamo che sanguinava, ma non ho potuto. Volevo dirgli, vuole una matita, però ho detto no. Poi... sono proprio diverse, credo, le mappe neuronali che mettiamo in gioco nel processo di lettura nel momento in cui leggiamo per piacere o leggiamo invece per apprendere. Tutte le tecniche legate all'apprendimento, quindi il sottolineare, il trascrivere, il mettere magari una piccola piega sulla pagina che ci interessa e poi andarcela a rileggere, quelle sono tutte modalità che rinforzano i processi mnemonici che sono poi associati ai processi di apprendimento. La lettura invece veloce è quella che scorre, tipica della lettura dei romanzi e della narrativa, è una lettura che non recluta processi di apprendimento, quindi restano impressi dentro di noi solo proprio i passaggi molto molto intensi e spesso poi perdiamo un po' il flusso dell'esperienza che abbiamo vissuto leggendo veloce. Sentiamo Serena che ci chiama dalla provincia di Asti, buongiorno, 800 24 0024, che ci racconta Serena? Pronto, salve. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo, come avevate chiesto, consigliare un libro. Grazie. Che si intitola Il Totem del Lupo ed è uno scrittore cinese. Cinese, è stato un grande caso editoriale cinese, vero? Sì, così leggo sul libro, ma io non ne sapevo assolutamente nulla e ho trovato questo libro in biblioteca. Sì. E l'ho letto con tantissimo interesse, nel senso che è scritto come un romanzo, però c'è l'autobiografia dello scrittore. E quindi mi è piaciuto molto perché mi ha permesso di conoscere un mondo reale, comunque, anche se ambientato negli anni 70, cioè sì. Mi sono immersa in un mondo che diversamente non avrei mai potuto conoscere. Sì, esatto. E spesso sono attirata, appunto, cioè vado a cercare autori stranieri, anche di non so, africani, asiatici, anche sudamericani, sì. Per esempio, comunque un po' dappertutto per il mondo, proprio leggendo questi libri, anche romanzi, sì. Dove però si capisce che c'è qualcosa di autobiografico dello scrittore, comunque per esperienza, sì. Si sente un po' male, Serena, ma quello che lei ci sta raccontando è proprio un libro per conoscere, un libro per viaggiare, Il Totem del Lupo. Caterina, buongiorno da Roma. Sì, buongiorno. Sono molto contenta di aver preso la linea. Anch'io di sentirla, Caterina. Telefono per segnalare un libro di un giovane scrittore calabrese, diciamo il suo primo libro. Sì. Lei è la mamma, no, Caterina? No, sono la mamma. No, sta scherzando. Lo conoscono, sono una parente, però non sono la madre. Questo libro si chiama Palcoscenico, sì. Ed è uscito alla Lamezia Terme. Solo quindi, lì. E quindi io non l'ho neanche ancora ricevuto perché l'ho dovuto... Però è un appello, è di gli scrittori meno conosciuti, Alberto, questo di andare a cercare proprio magari i futuri emergenti. Caterina ci dà questa segnalazione. E sai che tante volte succede poi che il romanzo scritto da uno scrittore non conosciuto e pubblicato da una piccolissima casa editrice locale, con il passaparola diventa un caso editoriale e viene poi richiesto e comperato da una grande casa editrice. E io però ci siamo annotati il titolo, l'autore della nostra, ma io vediamo cosa succede. Certo, ma io, Alberto, al telefono ho un grandissimo scrittore, devo dire che è uno dei miei scrittori preferiti, e infatti abbiamo Andrea Vitali in linea con noi. Ciao Andrea. Eccoci, ciao, troppo buona. No, e beh, d'altra buona, parte lo è un po' la verità, insomma, mi dispiace dirlo, però è solo un insomma, po'. Senti, tra l'altro tu verrai al Salone del Libro. Sì, con il tuo... domenica siamo a Torino. La leggenda del morto contento. Esattamente, parliamo di questa storia dell'Ottocento. Dell'Ottocento. Senti, io ce l'ho pronto perché io ho una piletta di libri e ho una sequenza. Tu fai come me, hai una sequenza di libri che leggi secondo un ordine o leggi un po' random quello che... Sì, no, io mi faccio sempre i programmi di lettura che poi sconvolgo praticamente sempre, eccetera. E vado un po' così a naso, sentendo la signora che parlava prima al telefono, mi sono venuti in mente, lei parlava di autori cinesi, di questi sì. autori un po' lontani da noi, mi è venuto in mente che è un grandissimo autore giapponese che è Murakami Haruki, di cui io sono assolutamente un fan, e questa narrativa molto particolare, proprio molto, molto orientale, è carica di suggestioni, di colori, di immagini che ti vengono suggerite, sono scrittori straordinari che sembrano non raccontare niente, ma che ti lasciano invece un sacco di cose una volta che hai chiuso i libri. Senti Andrea, tu quando è che leggi? Dunque io adesso, siccome mi sto rimbambendo un po', visto il passare degli anni, esattamente, alla sera non scrivo più, non guardo più la televisione perché mi dà sonno, mi mette sonnolenza e leggo quindi alla sera, il momento proprio, oppure approfitto, non so, le domeniche pomeriggio, queste belle lunghe domeniche pomeriggio, sdraiato sul divano ad accumulare colesterolo e letture sono straordinarie. Senti, a proposito di colesterolo, tu dai anche qualche consiglio ai pazienti che vengono a trovarti in ambulatorio? Dica, ma senta, prenda questo, ma si legga? Lo fai? Io devo, per dovere professionale devo dare consigli. Beh, certo. Cerco di dare consigli buoni. Quando... Consigli e non esempi, no? Mi avevi detto una volta. Sì, esattamente, consigli e non, e esempi, non esempi, perché io me la sono cosa. Rivenduta un sacco di volte questa, dicendo che era tua, dicendo... No, assolutamente, ma non credo che sia solo mia, insomma, che no, molti... Però a me quando dicono, ma come mangi che tu che proprio fai la salute, io dico, guarda, io ti dico quello che mi ha detto il mio amico Andrea Vitali, che è anche sì. medico, sono qua per dare consigli ma non per dare esempi. Esattamente, io anche io dico quello che mi hanno insegnato a dire, però cioè, il buon esempio è tutta un'altra questione. E quando posso, quando vedo che c'è la possibilità, consiglio anche i libri, soprattutto gli autori italiani, perché forse l'abbiamo già detto, ma repetita iuvant, dicevano i latini, gli italiani scrivono bene, scrivono delle ottime storie, per cui è inutile preferire loro autori d'oltre manica o d'oltre oceano, bisogna leggere anche... A parte il giapponese che ti piace tanto... Sicuramente scrivono bene anche gli altri, il giapponese però, è straordinario, però insomma, anche l'Italia ha dei grandissimi scrittori ed è un peccato non valutarli bene. Senti Andrea, quindi tu sarai al Salone del Libro, hai un appuntamento da darci, vieni a trovarci a Radio 24. Ah beh, siete voi che non mi invitate più. Che sfacciato, proprio a me. Allora, grazie ad Andrea Vitalis che è sempre super invitato, ma è sempre super impegnato. Adesso, e poi allora adesso al Salone del Libro ti pinzo io. Grazie, d'accordo, un abbraccio, buona giornata. Dobbiamo correre veloci a sentire che cosa succede sulle strade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Vi ricordo il consiglio di lettura di oggi che vi sta aspettando. Oggi parliamo di lettura, come si legge un libro, perché voi leggete un libro, se lo leggete, qual è il libro che avete tra le mani, avete appena chiuso, state per iniziare a leggere, suggeritecelo e consigliatecelo, uno di voi riceverà a casa come si legge un libro e soprattutto perché. Andiamo da Caterina, dalla provincia di Roma. Buongiorno Caterina. Buongiorno a tutti. Siamo qua pronti. Mi perdoni ma non la sento tanto bene. Ci racconti lei, Caterina? Benissimo, io sono una mamma innanzitutto di due bambine che fanno la scuola elementare, sì. E grazie a loro abbiamo una biblioteca nella nostra scuola e come volontaria aiuto la maestra a distribuire i libri a tutti i bambini della nostra scuola, che è un istituto comprensivo, quindi abbiamo bambini di scuola elementare e delle medie. E quindi bello, perché lei torna a leggere. Esattamente, vero? Ho riscoperto tanti libri, abbiamo una sezione anche per gli adulti, ma la cosa più bella è il sorriso di questi bambini che entrano dentro la nostra biblioteca, piccolina ma comunque funzionale, e sono così contenti perché scoprono i libri, li guardano, li assaporano quasi, e quindi mi hanno fatto riscoprire tanti libri che io, data l'età, non conoscevo più, non ricordavo più. Grazie a Caterina per essere stata con noi. E io ho scelto Alberto, il più bello di un trio, perché io scelgo sempre lui, scelgo quello che mi piace di più. E infatti in linea con noi abbiamo Giacomo, il bello del trio. Questa battuta rimarrà memorabile, lo sai. No, scusa, Giacomo, tu sei il più bello dei tre. Vabbè, grazie. Sì. Grazie mille. Insomma, sei lì da vedere. Invece, dici anche se, come si dice, sei bello dentro, se sei un lettore. Io sono un accanito lettore, no? E addirittura mia moglie, quando mi chiama il libraio di La Via Dove Sto, che non la sto a pubblicizzare, sì, mi fa un enorme complimento, insomma, perché se non facessi quello che faccio vorrei fare il libraio nella mia vita. Senti, non è escluso che quando manderò in pensione i miei due soci aprirò una libreria antiquaria, forse. Senti, i due brutti del trio. Adesso non verrà. Senti, Alberto era molto felice che tu fossi qua con noi, perché intanto perché io ho portato tutta la famiglia al cinema a vedere La Banda dei Babbi Natali, che adesso esce in DVD. Scoperto che esce in DVD, e quindi la riguarderemo tutti insieme, proprio un film davvero anche a misura di bambino. Ma la cosa che mi domando io è se la comicità è un talento innato, punto, oppure può essere alimentato abbondantemente anche da sane letture, oppure, e questa è l'altra domanda, un comico legge libri comici o per legge del contrappasso va nel territorio delle lacrime? Giacomo, vedi che profilo, che profilo. Ecco. Momento che sono io in mal di testa. Allora, domanda numero uno. Io credo che ognuno di noi abbiamo dentro un tesoro, un talento. La fortuna e la fatica di ognuno di noi è scoprire qual è questo talento. Io e i miei soci siamo stati fortunati. Però è anche vero che il talento da solo non è sufficiente, va alimentato, va allenato, come tutte le cose, va molto allenato, e noi ci siamo tanto allenati nei locali, nel teatro, così, e poi la curiosità, e perché no, le letture alimentano la tua fantasia. Io sono convinto che la lettura faccia solo bene. E non necessariamente si leggono solo libri comici. Io ne ho letti pochi di libri comici nella mia vita. Il mio autore preferito è P.J. Woodhouse, è uno scrittore inglese. Mi sentite? Sì, sì. L'Alberto annuisce con la testa, perché lui l'avrà sicuramente letto. È uno scrittore? È uno scrittore inglese, e noi addirittura il nostro primo spettacolo, sì, l'abbiamo intitolato Lampi d'estate, il secondo Aria di tempesta, proprio in omaggio a due suoi romanzi che sono veramente elegantemente esilaranti. Poi io personalmente, a parte lui e qualcosa di Woody Allen, ho letto poco di comico, preferisco leggere altre cose. Sì. Vi scandalizzerò, il mio libro preferito è I Promessi Sposi. Beh, però senti, non ci hai scandalizzato, Giacomo, ma insomma, ci confermi l'idea che avevamo di te. Ma Giacomo, tu al tuo bambino che cosa lo indirizzi, alla lettura o lo lasci libero? Allora il mio bimbo, sì, lo lascio libero, però ovviamente lui è affascinato e comincia, cioè a 4 anni e mezzo comincia ad essere innamorato dei libri, ovviamente se li fa leggere. Certo. Per esempio questa mattina a colazione io e mia moglie, interpretando le voci, abbiamo dovuto leggergli Le avventure del lupo Carnera, che nessuno conoscerà, ma è esilarante per lui. Oppure tutte le storie, quelle della Disney, che ci hanno fatto i libricini, La bella addormentata nel bosco, La carica di 101. E voi li interpretate con, a due voci? Cerchiamo di interpretare. Lui sembra soddisfatto, però, sembra gradire. Lui è molto soddisfatto e addirittura anche lui partecipa, fa qualcosina. Fantastico. Giacomo, bello e bravo. Saluta saluta tua moglie e grazie. Un bacio al tuo bambino e anche agli altri due del trio. A Va presto. Bene. Grazie. Continua anche a leggere, mi raccomando, che se non si legge ci si inaridisce. Grazie Giacomo Poretti, grazie a voi che ci avete seguito. Io vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Alberto, noi ci vediamo anche venerdì a Torino. A Torino. Vedete, prendete due piccioni con una fava se venite a incontrarci. Grazie. Essere e benessere.